A tutti, prima o poi, capita di assistere alla sventura di altri, disgrazia, che può consistere in un dissesto finanziario, la morte di una cara persona, una seria malattia. Umanamente, si partecipa, direttamente o indirettamente, a tali eventi dolorosi, anche se sta scritto che il cuore conosce la propria amarezza. Proverbi 14.10, cioè che solo chi sta provando il dolore in prima persona sa cosa sta soffrendo. Perciò parole, incoraggiamenti, servono ben poco per togliere la sofferenza, ma, nonostante tutto, hanno il loro valore e il loro apporto. Inoltre, l'ordine di Gesù è di piangere con quelli che piangono, e Gesù non ha mai comandato qualcosa che non serva a nulla. Purtroppo, non sempre si soffre con chi soffre, e, a volte, per vendetta o per mille altre ragioni, è possibile non solo rimanere indifferenti, ma addirittura rallegrarsi della sventura altrui. Una cosa per la quale la parola di Dio esprime tassativamente la sua condanna: chi si rallegra dell'altrui sventura non rimarrà impunito. Proverbi 17:5. Dio ci avverte che il nostro atteggiamento di fronte al dolore del prossimo non resta senza conseguenze. E dato che a nessuno piace la sventura propria, né l'altrui. Questo proverbio sembra un po' illogico, ma se il Signore lo ha fatto scrivere, per certo è necessario. Però dobbiamo anche aggiungere che se nessuno è pronto a rallegrarsi per la sventura di un giusto, per uno che se lo merita, forse, anche se non lo diciamo, siamo contenti. Lo dimostrano certe affermazioni: ricevi quello che ti meriti, oppure, come si dice nel modenese, quella sventura gli sta bene come due scarpe in piedi. Ma la parola di Dio è chiara: quando il tuo nemico cade, non ti rallegrare. Quando è rovesciato, il tuo cuore non ne gioisca. Proverbi 12:17. Secondo la scrittura, il nemico non è solo chi cerca di farti del male, ma è pure colui che ti evita, colui verso il quale nutri dei risentimenti. Ebbene, Dio ti ordina di non rallegrarti per coloro che ricevono il male come conseguenza della giusta condanna. Per questo, anche se le seguenti riflessioni sono riduttive, le esprimo per indirizzarti sul cammino del vero amore. Nella scrittura abbiamo almeno un esempio da dove possiamo trarre una lezione: come è stato trattato il popolo di Israele. La parola di Dio narra che esso è stato portato lontano dal suo paese a causa dell'infedeltà al suo Dio, come è scritto: L'Eterno manderà contro di te la maledizione, lo spavento e la minaccia in ogni cosa cui metterai mano e che farai, finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente, a causa della malvagità delle tue azioni per la quale mi avrai abbandonato. Deuteronomio 28:20. E ancora, quando direte perché Yahweh, il nostro Dio, ci ha fatto tutto questo, tu risponderai loro: come voi mi avete abbandonato e avete servito dei stranieri nel vostro paese, così servirete gli stranieri in un paese che non è vostro. Geremia 5:19. Per questo motivo, nella volontà di Dio, nazioni hanno vinto il popolo di Israele, lo hanno dominato, preso schiavo tra molte sofferenze: babilonesi, medi, persiani, greci, romani. L'inevitabile conclusione del giudizio di Dio verso Israele è che le nazioni che distruggevano Gerusalemme ritenevano di non commettere errori o peccato perché non facevano altro che la volontà di Dio. Essi lo sapevano e lo dicevano con un certo orgoglio, come testimonia il profeta Geremia. Il mio popolo era un gregge di pecore smarrite, afferma Dio, i loro pastori le avevano sviate sui monti dell'infedeltà. Esse andavano di monte in colle, avevano dimenticato il luogo del loro riposo. Tutti quelli che le trovavano le divoravano. I loro nemici dicevano: noi non siamo colpevoli, poiché essi hanno peccato contro l'Eterno. Geremia 50, 6 a 7. Lo stesso Rabsaché, il comandante del re di Assiria, con un certo orgoglio dichiarò a tutto il popolo di Gerusalemme: adesso sono forse salito senza il volere dell'Eterno contro questo luogo per distruggerlo? L'Eterno mi ha detto: sali contro questo paese e distruggilo. 2 Re 18:25. Non solo i nemici erano coscienti di questo, ma Dio stesso più volte ne ha giustificate le azioni. O Babilonia, tu sei stata per me un martello, uno strumento di guerra. Con te ho schiacciato le nazioni, con te ho distrutto i regni. Con te ho schiacciato cavalli e cavalieri, con te ho schiacciato i carri e chi vi stava sopra. Con te ho schiacciato uomini e donne, con te ho schiacciato vecchi e bambini, con te ho schiacciato giovani e fanciulle, con te ho schiacciato i pastori e le loro greggi, con te ho schiacciato i lavoratori e i loro buoi aggiogati, con te ho schiacciato governatori e magistrati. Geremia 51, 20, 23. Come se ciò non bastasse per il servizio reso distruggendo Gerusalemme, Dio dona un premio a Nabucodonosor, perciò così parla Dio il Signore. Ecco, io do a Nabucodonosor, re di Babilonia, il paese d'Egitto. Egli ne porterà via le ricchezze, lo spoglierà delle sue spoglie. Si impadronirà di quanto ci è da saccheggiare. Questo sarà il salario per il suo esercito. Come retribuzione del servizio che egli ha fatto contro Tiro, io gli do il paese d'Egitto, poiché hanno lavorato per me, dice Dio il Signore. Ezechiele 29, 19, 20. Un messaggio del genere non poteva creare che proteste tra gli ebrei, anche perché loro erano il popolo prediletto di Dio. Ma il profeta Geremia, al capitolo 27, più volte invita il popolo a sottomettersi a Babilonia perché questo era nella volontà di Dio. È comprensibile come Geremia sia stato tanto perseguitato e abbia ottenuto tanta opposizione. Egli stava predicando che la santa città è il luogo dove Dio risiedeva e il popolo eletto sarebbero stati vinti giustamente e secondo il volere del loro Dio da un re pagano incredulo. Come è stato ben detto, è la zanzara che dà fastidio ad essere uccisa per prima. Però, nonostante Dio abbia parlato in questo modo, nonostante abbia difeso Babilonia, abbia giustificato Nabucodonosor per quello che ha fatto, ecco cosa aggiunge: ma sotto i vostri occhi io renderò a Babilonia tutti gli abitanti della Caldea tutto il male. Eccomi a te, o montagne di distruzione, dice l'Eterno, a te che distruggi tutta la terra. Io stenderò la mia mano su di te, ti rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata. Da te non si trarrà più pietra angolare, né pietre da fondamenta, ma tu sarai una desolazione perenne, dice l'Eterno. Geremia 51, 24, 26. Comma, è possibile che Dio dica simili parole dopo aver preso le parti di Babilonia? Prima si è servito di lei per compiere la sua volontà, per punire Israele, poi la punisce perché ha fatto ciò che gli aveva ordinato di fare. Ha tutto questo un senso? In pratica, Dio si sta lamentando del martello del quale egli stesso si è servito. Può uno strumento essere lodato e, nello stesso tempo, rimproverato? Può uno strumento essere colpevole? Sono domande che fanno riflettere e alle quali è difficile dare una spiegazione. Ma al di là di ogni risposta, una cosa è certa: Dio è giusto e tale rimane in ogni sua manifestazione impresa verso gli uomini. La Bibbia dà comunque la spiegazione per tale comportamento. L'errore commesso da Babilonia non è tanto nelle azioni commesse quanto nell'atteggiamento tenuto. Come mai si è rotto, si è spezzato il martello di tutta la terra? Come mai Babilonia è diventata una desolazione fra le nazioni? Io ti ho teso un laccio, e tu, Babilonia, vi sei stata presa, senza che te ne accorgessi. Sei stata trovata e fermata, perché ti sei messa in guerra contro l'Eterno. Convocate contro Babilonia gli arcieri, tutti quelli che tirano d'arco. Accampatevi contro di lei tutto intorno, nessuno ne scampi. Rendetele secondo le sue opere, fate interamente a lei come essa ha fatto, poiché essa è stata arrogante contro Yahve, contro il Santo di Israele. Geremia 50, 23, 24, 29, 32. Babilonia ha fatto sì la volontà di Dio, ma ha operato con arroganza, mettendosi in questo modo contro il Dio di Israele. Si era rallegrata della distruzione della propria nemica, Gerusalemme. E Dio, che non tollera queste cose, decise di distruggere Babilonia, perché l'Eterno è il Dio delle retribuzioni, non manca di rendere ciò che è dovuto. Geremia 51, 56. Davanti a Dio non conta tanto quello che si fa, ma la motivazione. Poiché l'errore di Babilonia non è stato un caso isolato, prendiamo in esame come altri popoli si sono comportati con Gerusalemme, e da essi trarremo otto lezioni, cioè otto atteggiamenti sbagliati che anche noi possiamo avere nei confronti di chi si trova nella sventura. 1. Gli ammoniti Ezechiele 25:1-7 si rallegrarono. Leggiamo nel libro di Ezechiele dell'atteggiamento tenuto dal popolo di Ammon nei confronti della sventura di Israele. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Figlio d'uomo, volgi la tua faccia verso i figli di Ammon e di ai figli di Ammon: ascoltate la parola del Signore, l'Eterno. Così dice il Signore, l'Eterno, poiché tu hai detto «Ah, ah!» contro il mio santuario quando è stato profanato, contro il paese di Israele quando è stato desolato, e contro la casa di Giuda quando è andata in cattività, perciò ecco, io ti do in possesso dei figli dell'Est, ed essi metteranno i loro accampamenti in mezzo a te, e stabiliranno in mezzo a te le loro dimore, essi mangeranno i tuoi frutti e berranno il tuo latte. Io farò di Rabbah un recinto per cammelli e del paese dei figli di Ammon un ovile per le pecore. Allora riconoscerai che io sono l'Eterno. Per questo così dice il Signore, l'Eterno. Poiché tu hai battuto le mani e pestato i piedi e hai gioito nel cuore con tutto il tuo disprezzo per il paese di Israele, perciò ecco, io stendo la mia mano contro di te e ti darò come bottino alle nazioni, ti sterminerò dai popoli e ti farò sparire dal numero dei paesi, ti distruggerò. Così riconoscerai che io sono l'Eterno. Gli Ammoniti si unirono a Edom e Moab per persuadere il re Sedechia a ribellarsi. Quando Gerusalemme fu assediata, furono prese anche le città del popolo di Israele e il re degli Ammoniti. Istigò Ismael a compiere l'assassinio di Gedalia, Geremia 40:14. Il profeta non menziona tutto ciò, perché parlava ad un popolo già a conoscenza degli eventi, ma ricorda loro come Ammon fosse felice della rovina di Gerusalemme. Era felice al punto da disprezzare il popolo di Israele. Il profeta Geremia spiegherà che il modo in cui Ammon lo aveva disdegnato era palesato dalla sua usurpazione illegale dei possedimenti legittimi della tribù di Gad. Geremia 49:1-6. Comportarsi illegalmente e rallegrarsi delle sventure altrui è un atteggiamento odioso per Dio, per quanto possa rientrare in un piano da Dio stesso stabilito. L'ordine di Dio in merito alle disgrazie altrui è di piangere con quelli che piangono, Romani 12:15, perché non sta a noi emettere delle sentenze morali. Se poi si tratta di persone che appartengono alla schiera dei figli di Dio, a maggior ragione si devono avere sentimenti di pietà. Risuonano più che appropriate le parole di Giobbe, che soffriva anche ingiustamente. A colui che è afflitto, l'amico dovrebbe mostrare comprensione, anche se egli dovesse abbandonare il timore dell'Onnipotente. Giobbe 6:14. Dio ci dia di essere sempre comprensivi, per trovare disponibilità a nostra volta. 2. I Moabiti Ezechiele 25:8-11 lo disprezzarono. L'atteggiamento del popolo di Moab non è stato molto diverso dagli Ammoniti, anche perché gli Ammoniti erano vicini ai Moabiti, sia per parentela sia per posizione geografica. Così dice il Signore l'Eterno, poiché Moab e Sir dicono, ecco, la casa di Giuda è come tutte le altre nazioni, perciò ecco, io aprirò il fianco di Moab dal lato delle città che stanno ai suoi. Lo darò quindi in possesso ai figli dell'Est, assieme ai figli di Ammon, affinché i figli di Ammon non siano più ricordati fra le nazioni. Così eseguirò i miei giudizi su Moab ed essi riconosceranno che io sono l'Eterno. L'errore dei Moabiti consistette nella mancanza di stima nei confronti dell'elezione di Israele, quale popolo del Dio vero, considerandola invece una nazione come tutte le altre. Per questo atteggiamento Moab fu destinato a essere distrutto, come dice il profeta Sofonia. Sofonia 2:8-10. Ho udito il disprezzo di Moab e gli oltraggi dei figli di Ammon, con i quali hanno insultato il mio popolo, e si sono ingranditi a danno del loro territorio. Perciò è vero che io vivo, dice l'Eterno, degli eserciti il Dio di Israele, certamente Moab sarà come Sodoma e i figli di Ammon come Gomorra, un luogo occupato dalle ortiche e saline, una desolazione per sempre. Il resto del mio popolo li saccheggerà, e il residuo della mia nazione li possederà. Questo avverrà loro per la loro superbia, perché hanno insultato e trattato con arroganza il popolo dell'Eterno degli eserciti. L'Eterno sarà terribile contro di loro, perché farà piegare tutti gli dèi della terra, e ciascuno lo adorerà dal suo luogo, sì, tutte le isole delle nazioni. La mancanza di stima, unita al disprezzo, attira su di sé una severa condanna, una condanna pronunciata anche da Gesù per chi ha atteggiamenti sbagliati nei suoi riguardi. Quando disse ai suoi contemporanei: «Curi, chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio», citava lo stesso giudizio emesso per gli ammoniti. Il popolo di Israele si trovava disprezzato, maltrattato e perseguitato. I popoli vicini speravano in eventi imminenti, a dimostrazione che il loro Dio era come uno dei tanti dei. Così è oggi per Gesù. Molti lo ritengono un bravo uomo. O profeta, ma non il Dio creatore della terra e dei cieli. Ma la condanna valevole allora è la medesima anche oggi. È un grave errore fatale considerare gli avvenimenti descritti nella Bibbia come fatti simbolici o al massimo come eventi storici che non ci riguardano, perché vi è un solo Dio, il quale non ha riguardi personali. Sta scritto nelle leggi antiche: se il tuo nemico ha fame, dagli del pane da mangiare; se ha sete, dagli dell'acqua da bere, Proverbi 25:21, mentre Gesù ordinò espressamente: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Il Dio eterno e vero non ha cambiato opinione né carattere. 3. Gli Edomiti, Ezechiele 25:12-14, fecero vendetta. Gli Edomiti erano i discendenti di Esaù, gemello di Giacobbe. Spesso si comportavano da suoi nemici. Ad essi Dio proclama la seguente sentenza: così dice il Signore, l'Eterno, per ciò che Edom ha fatto contro la casa di Giuda compiendo vendetta, e perché si è reso grandemente colpevole vendicandosi di essa, così dice il Signore, l'Eterno, io stenderò la mia mano contro Edom, ne sterminerò uomini e bestie e lo renderò una desolazione. Da Teman fino ad Edan cadranno per la spada. Compirò la mia vendetta su Edom per mezzo del mio popolo di Israele, che tratterà Edom secondo la mia ira e secondo il mio furore. Così essi conosceranno la mia vendetta, dice il Signore, l'Eterno. Gli Edomiti usarono la loro temporanea supremazia su Israele per vendicarsi e, come un giudice, che abbia l'opportunità di giudicare un nemico, la sentenza risentirà dell'odio e sarà più dura. Non è forse così anche per noi? Quante volte si ricevono dei torti, apparenti o veri, che restano scolpiti nella nostra memoria, così come arriva l'occasione propizia per rendere la moneta che si è ricevuta. Operiamo la nostra vendetta. Il popolo di Edom prese la scusa della vittoria per saccheggiare, Abdia 10:10-15, e nella sventura di Israele compì la propria vendetta. Cosa dice la parola di Dio in merito a questo atteggiamento sbagliato? Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione meno, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché, facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo, meno. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Romani 12:19-21. Anche Dio non tollera l'ingiustizia, e dobbiamo dire molto più di noi. Per questo non vuole che ci facciamo giustizia con le nostre mani, perché è Lui stesso a volerla eseguire. Un motivo c'è. Se ci facciamo giustizia da soli, possiamo anche sbagliare, perché noi non siamo onniscienti per comprendere i veri moventi che hanno indotto il prossimo a farci del male, mentre Dio è in grado di capire ogni cosa. A noi esseri umani spetta di vincere il male con il bene, anche perché spesso è un atto di fede comportarsi conformemente alla volontà di Dio, al quale, come è scritto, senza fede non possiamo piacere. Un atto che viene abbondantemente premiato. Che l'errore degli Edomiti ci serva come monito, perché se Dio compie la sua vendetta su di noi, che è poi la sua correzione o riprensione, è una scuola molto dura. Infatti è scritto che Dio flagella colui che gradisce. 4. I Filistei, Ezechiele 25, 15, 17, nutrirono odio antico. Così dice il Signore, l'Eterno, poiché i Filistei sono stati vendicativi e hanno compiuto vendetta, col cuore pieno di disprezzo per distruggere, mossi da un'antica inimicizia, perciò così dice il Signore, l'Eterno, ecco, io stenderò la mia mano contro i Filistei, sterminerò i Cheretei e distruggerò il resto della costa del mare. Compirò su di loro una grande vendetta con castighi furiosi, e riconosceranno che io sono l'Eterno quando compirò su di loro la mia vendetta. Anche i Filistei si sono vendicati non per opportunità, ma per odio antico o per un'antica inimicizia. Verso il popolo di Israele, i Filistei nutrivano una certa rivalità, sia a causa del territorio, sia per un certo campanilismo. Nel momento che Israele veniva invaso, i Filistei non avevano delle ragioni vere e proprie da rivendicare, ma nutrivano dell'odio trasmesso di generazione in generazione. E questo è comprensibile, perché tra i due non è mai scorso buon sangue da secoli e secoli. Come per certe famiglie. Spesso i figli e i nipoti devono subire certe inimicizie, o rancori, che derivano da vecchie questioni fra i loro genitori o antenati, mentre dopo due generazioni il tutto potrebbe anche essere dimenticato. Come dire che gli italiani, essendo l'Italia stata invasa dai tedeschi solo una generazione fa, alimentassero ancora del rancore nei confronti dei loro figli. Proprio per questo la legge antica di Israele comandava di non punire i figli per ciò che avevano commesso i genitori. Cosa dice la parola di Dio in merito a questo atteggiamento di inimicizia, da non imitarsi? Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Colossesi 3, 12-15. Bisogna saper perdonare anche quando ci sono delle valide ragioni per nutrire risentimenti. Anzi, è proprio questo il momento di perdonare, perché se il prossimo non ci ha fatto nulla, cosa si deve perdonare? Sta scritto nella parola di Dio che l'amore non addebita il male, cioè non registra il male o non ritiene il colpevole, debitore. L'odio logora, l'amore rinvigorisce, l'odio pone dei legami, l'amore libera. I torti antichi possono diventare una buona ragione per amare, per fare un regalo a chi non desidera la nostra presenza. Gesù disse, se facciamo del bene solo a chi ci fa del bene, che premio ne abbiamo? Non imitiamo quindi il popolo dei Filistei, ma solo Gesù. 5. Gli abitanti di Tiro, Ezechiele 26, 1-6, nutrirono invidia. Ora avvenne nell'anno undicesimo, il primo giorno del mese, che la parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo, figlio d'uomo, poiché Tiro ha detto contro Gerusalemme, la porta dei popoli è infranta, si è rivolta a me, io sarò riempita ora che essa è devastata. Perciò così dice il Signore, l'Eterno, ecco, io sono contro di te, o Tiro. Io farò salire contro di te molte nazioni, come il mare fa salire le proprie onde. Esse distruggeranno le mura di Tiro e abbatteranno le sue torri. Spazzerò via da essa anche la sua polvere, e la renderò come un'arida roccia. Essa sarà un luogo per stendere le reti in mezzo al mare, perché io ho parlato, dice il Signore l'Eterno, diventerà bottino delle nazioni, anche le sue figlie che sono in campagna saranno uccise dalla spada. Allora riconosceranno che io sono l'Eterno. Gli abitanti di Tiro erano contenti della distruzione di Gerusalemme, perché ne avrebbero ricavato un beneficio. Animati dall'invidia, trovavamo pure piacere nel guardare le rovine di Gerusalemme, dato che era un grande centro dove, per svariate motivazioni, si riunivano tutte le nazioni. Gli abitanti di Tiro vedevano Gerusalemme non come una nemica, perché il re di Tiro era stato un grande amico di Davide e poi di Salomone, ma come una rivale. Tiro era famosa per la sua sapienza e per il suo commercio, era la porta dei popoli, e questo creava invidia, perciò gli abitanti di Tiro si beffavano di Israele. Cosa ordina la parola di Dio in merito a questo vergognoso atteggiamento? ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Romani 15, 2. Mentre l'invidia è un vero tarlo delle ossa, è un atteggiamento grandemente negativo, che non lascia tregua giorno e notte in chi la cova, Dio ci ordina di compiacere o assecondare il prossimo a scopo di edificazione. Molto probabilmente all'inizio, per chi porta invidia, è molto difficile interessarsi e vedere i lati positivi dell'altro. Ma in seguito ci si accorge che il prossimo merita veramente di essere incoraggiato e stimato. L'invidia considera se stesso. Vede il mondo che ruota intorno a sé, ma un giusto atteggiamento d'amore considera gli altri almeno quanto se stesso. Un peccato, l'invidia, certamente da evitare, soprattutto per i virtuosi. 6. Gli abitanti di Sidone, Ezechiele 28, 20-28, covarono disprezzo. La parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo, «Figlio d'uomo, volgi la faccia verso Sidone», e profetizza contro di lei, e di dato. Così dice il Signore, l'Eterno, ecco io sono contro di te, o Sidone, e sarò glorificato in mezzo a te. Riconosceranno che io sono l'Eterno quando eseguirò i miei giudizi in mezzo a lei, e sarò santificato in lei. Manderò su di lei la peste e il sangue nelle sue vie in mezzo. Ad essa cadranno gli uccisi dalla spada, mandata contro di lei da ogni parte. Allora riconosceranno che io sono l'Eterno, e non ci sarà più per la casa di Israele alcuna cureo pungente, o spina dolorosa fra tutti i suoi vicini che la disprezzano. Allora riconosceranno che io sono il Signore, elle, Eterno. Così dice il Signore, l'Eterno. Quando avrò raccolto quelli della casa di Israele, di mezzo ai popoli fra i quali sono dispersi, e mi santificherò in loro agli occhi delle nazioni, essi abiteranno nel loro paese, che diedi al mio servo Giacobbe. Vi abiteranno al sicuro, edificheranno case e pianteranno vigne. Sì, abiteranno al sicuro quando eseguirò i miei giudizi su tutti quelli intorno a loro che li disprezzano. Allora riconosceranno che io sono l'Eterno, il loro Dio. Sidone era una delle città vicine al popolo di Israele, verso il quale nutriva disprezzo. Il disprezzo è sempre già di per sé un errore, ma nel caso dei popoli circostanti Israele è più significativo. Tutti i popoli sapevano che gli ebrei erano particolari, erano a conoscenza della loro fede monoteista. In contrasto al politeismo vigente nelle altre nazioni, erano al corrente della storia unica e miracolosa, per la quale ora si trovavano in Canaan, avevano avuto occasione di sentire parlare direttamente e indirettamente dei suoi profeti. Ma nonostante ciò queste nazioni non avevano avuto un santo timore del loro Dio, non credevano che Yahweh fosse l'unico vero e vivente Dio e come se ciò non bastasse, lo disprezzavano, sprezzando anche tutti cosa dice la parola di Dio. Chi disprezza il prossimo è privo di senno, ma l'uomo prudente tace, Proverbi 11 e 12. Chi disprezza il prossimo per cose umane avrà una condanna proporzionata, ma chi disprezza il vero Dio andrà nelle pene eterne. Inoltre, si ha sempre occasione di fare commenti dispregiativi, dimenticando che tutti hanno dei lati positivi, cosicché il silenzio, spesso, è un atto d'amore. Se poi sappiamo trovare delle sfaccettature positive negli altri e li incoraggiamo, il nostro amore è simile a quello del Padre Celeste. 7. Il popolo dell'Egitto, Ezechiele 29, 1-7, non sostenne Israele. Nel decimo anno, decimo mese, il dodicesimo giorno del mese, la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo, «Figlio d'uomo, volgi la tua faccia contro il faraone re di Egitto e profetizza, contro di lui e contro tutto l'Egitto parla e di, così dice il Signore l'Eterno, ecco io sono contro di te, o faraone re d'Egitto, grande dragone che giaci in mezzo. Io metterò uncini nelle tue mascelle e farò sì che i pesci dei tuoi fiumi si attacchino alle tue squame. Ti farò quindi uscire di mezzo ai tuoi fiumi, e tutti i pesci dei tuoi fiumi si attaccheranno alle tue squame. Ti getterò nel deserto, te e tutti i pesci dei tuoi fiumi, e cadrai in aperta campagna. Non sarai né radunato né raccolto, ti darò in pasto alle bestie della terra e agli uccelli del cielo. Allora tutti gli abitanti dell'Egitto riconosceranno che io sono l'Eterno, perché sono stati per la casa di Israele un sostegno di canna. Quando ti hanno afferrato per la mano ti sei rotto, e hai lacerato loro tutta la spalla. Quando si sono appoggiati su di te ti sei spezzato e hai fatto loro vacillare tutti i lombi. L'Egitto non odiò Israele, né lo saccheggiò e neppure si rallegrò come gli altri popoli della sciagura di questa nazione, anche perché aveva ricevuto una giusta lezione al tempo del Faraone e di Mosè, ancora ben impressa nella sua memoria storica. Però non fece nulla per sostenere Israele. Israele cercava nell'Egitto un sostegno per combattere Babilonia, ma l'Egitto, anziché aiutarlo, lo fece cadere. Un modo questo molto democratico e apparentemente pulito per far del male agli altri. Un modo pulito per i falsi religiosi. Cosa dice la parola di Dio? Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Galati 6:7-10. Dio ci ricorda che, prima o poi, tutti abbiamo bisogno di essere sostenuti e incoraggiati. Se vogliamo essere aiutati e sostenuti, dobbiamo a nostra volta prestarci in favore del prossimo appena ne abbiamo l'opportunità, soprattutto verso fratelli in fede. 8. Il popolo di Edom, Ezechiele 35:1-14, abbandonò Israele. La parola dell'Eterno mi fu nuovamente rivolta dicendo: «Figlio d'uomo, volgi la tua faccia verso il monte Seir e profetizza contro di esso e digli: così dice il Signore l'Eterno, ecco, io sono contro di te, o monte Seir, io stenderò la mia mano contro di te e ti renderò una desolazione e un deserto. Io ridurrò le tue città in rovine e tu diventerai una desolazione. Allora riconoscerai che io sono l'Eterno, poiché tu hai avuto un'antica inimicizia e hai consegnato i figli di Israele in balia della spada, al tempo della loro calamità, quando la loro iniquità era giunta al colmo. Com è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, ti riservo per il sangue e il sangue ti inseguirà. Poiché non hai odiato il sangue ti inseguirà. Così ridurrò il monte Seir in una desolazione e in un deserto, e sterminerò da esso chi va e chi viene. Riempirò i suoi monti dei suoi uccisi, sui tuoi colli, nelle tue valli, e in tutti i tuoi burroni cadranno gli uccisi dalla spada. Ti ridurrò una desolazione perpetua, e le tue città non saranno più abitate. Allora riconoscerete che io sono l'Eterno. Poiché hai detto: quelle due nazioni e quei due paesi saranno miei, noi li possederemo anche se là c'era l'Eterno. Com, è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno. Io agirò con la tua stessa ira e con la gelosia che hai dimostrato nel tuo odio contro di essi, e mi farò conoscere in mezzo a loro, quando ti giudicherò. Tu allora riconoscerai che io, l'Eterno, ho udito tutti gli insulti che hai proferito contro i monti di Israele, dicendo: sono desolati, sono dati a noi per divorare. Con la vostra bocca vi siete vantati contro di me e avete moltiplicato contro di me le vostre parole, ho udito ogni cosa. Così dice il Signore l'Eterno, quando tutta la terra si rallegrerà, io ti ridurrò una desolazione. Trattino. Abbiamo già considerato la vendetta degli abitanti di Edom. Ora il profeta Ezechiele spiega come essa fu eseguita, abbandonando Israele. Molto probabilmente, il giorno che Gerusalemme fu conquistata, Edom era con i babilonesi. Per questo leggiamo che non ha avuto in odio il sangue, ma ha lasciato che Gerusalemme fosse distrutta. Versetto 6. E Ca ha colto l'opportunità per sterminarne i fuggiaschi. Ma Dio abbraccia e difende la causa del suo popolo. Ciò che è fatto contro Israele è fatto contro Dio stesso, per questo dice: io sono contro di te, o Monte Seir. Queste parole non fanno riflettere chi ha in avversione la generazione di Dio? Se Dio è con i suoi figli, anche quando li punisce, chi potrà essere contro di loro? Se Dio li giustifica, chi potrà accusarli? Prendiamone nota con timore e non con un sentimento di trionfo. Cosa dice la parola di Dio in merito al nemico che si trova nella necessità? Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Es 23:5. E ancora, se vedi smarrirsi il bue o la pecora del tuo prossimo, tu non farai finta di non averli visti, ma avrai cura di ricondurli al tuo prossimo. Se il tuo prossimo non abita vicino a te e non lo conosci, raccoglierai l'animale in casa tua e rimarrà da te finché il tuo prossimo non ne faccia ricerca, allora glielo renderai. Lo stesso farai del suo asino, lo stesso della sua veste, lo stesso di qualunque altro oggetto che il tuo prossimo ha perduto e che tu trovi. Tu non farai finta di non averli visti. Se vedi l'asino di un tuo fratello, o il suo bue caduto sulla strada, tu non farai finta di non averli visti, ma dovrai aiutare il tuo prossimo a rialzarlo. Deuteronomio 22:1-4. Non solo quindi occorre aiutare chi ha bisogno, ma si deve anche prestare attenzione a non ignorarne la necessità, a non rimanere indifferenti. Dunque, questo fu il comportamento dei popoli circonvicini a Gerusalemme quando questa fu presa e saccheggiata. Essi si rallegrarono, la disprezzarono, risentiti, colsero l'occasione per vendicarsi, mostrarono invidia, fecero vendetta, nutrirono dell'odio antico, furono indifferenti, non furono di aiuto, ma la abbandonarono alla distruzione. Anche il profeta Geremia ebbe parole dure verso coloro che vinsero Gerusalemme, al capitolo 2:4 del suo libro, 2:17-4:11-14. Ma, nonostante tutto, per Dio Gerusalemme è sempre stata preziosa, al punto da parlare di un suo lontano futuro glorioso, già parzialmente palese ai giorni nostri. Il profeta Ezechiele lo esprime molto bene, Ezechiele 36:1-12. Tu figlio d'uomo, profetizza ai monti di Israele e di o monti di Israele, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore l'Eterno, poiché il nemico ha detto di voi, i colli eterni sono divenuti nostro possesso, profetizza, e di, così dice il Signore l'Eterno, sì, poiché hanno voluto devastarvi e inghiottirvi da ogni lato, per farvi diventare possesso del resto delle nazioni. E perché siete stati oggetto dei discorsi delle male lingue e delle calunnie della gente, perciò, o monti di Israele, ascoltate la parola del Signore dell'Eterno. Così dice il Signore l'Eterno, ai monti e ai colli, ai burroni e alle valli, ai luoghi devastati e desolati, e alle città abbandonate che sono divenute preda e oggetto di disprezzo del resto delle nazioni d'intorno. Perciò così dice il Signore l'Eterno, sì, nel fuoco della mia gelosia io parlo contro il resto delle nazioni e contro tutto Edom che hanno fatto del mio paese il loro possesso con tutta la gioia del cuore e disprezzo dell'anima, per cacciarlo come preda. Perciò profetizza alla terra di Israele, e di ai monti e ai colli, ai burroni e alle valli, così dice il Signore l'Eterno. Ecco, io ho parlato nella mia gelosia e nel mio furore, perché voi avete portato il vituperio delle nazioni. Perciò così dice il Signore l'Eterno. Io ho alzato la mano in giuramento. Le nazioni che mi circondano porteranno anch'esse il loro vituperio. Ma voi, o monti di Israele, metterete i vostri rami e porterete i vostri frutti per il mio popolo di Israele. Sì, esso sta per tornare. Poiché ecco, io sono per voi, mi volgerò verso di voi e sarete coltivati e seminati. Farò moltiplicare su di voi gli uomini, tutta la casa di Israele, le città saranno abitate e le rovine ricostruite. Farò moltiplicare su di voi uomini e bestie. Moltiplicheranno e saranno fecondi. Vi farò abitare come nei tempi passati e vi farò del bene più che ai vostri inizi. Allora riconoscerete che io sono l'Eterno, sì, farò camminare su di voi degli uomini, il mio popolo di Israele, essi vi possederanno, e voi sarete la loro eredità e non li priverete più dei loro figli. Israele ha ricevuto la sua retribuzione, ma Dio si è servito del suo peccato per giudicare tutte le altre nazioni. Tutti i popoli quindi sono stati giudicati, ma con una differenza. Mentre per tutte le nazioni Yahvé Dio ha profetizzato dolori e vergogna, per Israele, essendo il popolo di Dio, ha parlato anche di speranza e di gloria. Si avvererà così la preghiera di Israele: guarda, Eterno, come sono angosciata! Le mie viscere si commuovono, il cuore mi si sconvolge in seno, perché la mia ribellione è stata grave. Fuori la spada mi priva dei figli, dentro è la morte. Mi sentono sospirare, non c'è, e chi mi consoli. Tutti i miei nemici hanno udito la mia sciagura, e si rallegrano di ciò che tu hai fatto. Fa venire il giorno che è annunziato, e allora saranno come me. Tieni presente tutta la loro malvagità, e trattali come hai trattato me a causa di tutti i miei peccati. I miei sospiri infatti sono numerosi, e il mio cuore è languente. Lamentazioni 1:21-22. In effetti Dio trattò gli altri popoli proprio come trattò il popolo di Israele. Abbiamo iniziato questo studio con un proverbio, ora termineremo con un altro. Chi si adopera per il bene si attira benevolenza, ma chi cerca il male, male lo colpirà. Proverbi 11:27. Se i popoli avessero osservato la prima parte di questo proverbio, non avrebbero sperimentato la minaccia della seconda parte. Che Dio ci dia di essere ripieni di misericordia in ogni situazione, soprattutto quando nelle situazioni siamo favoriti rispetto ai nostri nemici, perché possono essere, e sono, mezzi di benedizione per noi. 198. Data trasmissione. Ellero.